Accompagnavo mia madre a fare la spesa e, non essendo usuale da parte mia, la vedeva tutta contenta e soddisfatta. Ad un dato momento, mentre stava pensando cosa comprare, mi chiese se desideravo qualcosa, ma in quel momento, essendo più che soddisfatto, non avevo alcunché da domandare. Passò un po' di tempo e mi si rivolse di nuovo. Tellero, desidero comprarti qualcosa. Qualsiasi cosa. Cosa vuoi? Non hai che da chiedere. No. Risposi di nuovo, non desidero nulla. Non ho bisogno di niente, ma la mamma ardeva dal desiderio di comprami qualcosa, e così dopo poco riconfermò che mi avrebbe comprato qualsiasi cosa, bastava solo che le esprimessi il mio desiderio. Allora divenni pensoso perché capivo che la mamma aveva la necessità di sentirsi utile e di essere gratificata per avermi comprato ciò che mi piaceva. Così. Dopo essermi guardato attorno, vidi due bei cipollotti. Mi rivolsi a lei dicendo: se mi vuoi comprare qualcosa per farmi piacere, prendi quei due bei cipollotti. Non aveva ancora finito di parlare che mia madre rispose: cosa? Quei due cipollotti? Assolutamente no. Piuttosto ti compro quella cipolla, ma i due cipollotti non te li compro. Ma io desidero quei due cipollotti, risposi subito. Ho capito, ribatté mia madre. Ma i due cipollotti non te li compro. Ti compro una cipolla che è meglio. Le feci notare che se voleva comprare quello che gradivo doveva comprarmi due cipollotti e non la cipolla. Ma a nulla. Servirono le mie ragioni e alla fine mi comprò la cipolla. Che cosa ha da insegnare questo episodio? Avvenuto qualche tempo fa. Per prima cosa ha dimostrato l'amore di una madre che è disposta a fare un qualsiasi regalo al figlio. Ma in seguito rifiuta la richiesta, perché la risposta non è in relazione alle proprie aspettative, cioè era fuori dalle attese o previsioni. Mia mamma si aspettava che io comprassi qualcosa che fosse secondo i suoi gusti o che rientrasse nella sua logica, ma, avendo proposto una cosa per lei insensata, mi comprò ciò che a lei piaceva. Può anche darsi che avesse ragione perché in una cipolla vi è meno scarto che in due cipollotti, ma in quel momento non era il caso di fare delle simili valutazioni, anche perché era soggettivo, dato che aveva promesso di comprarmi qualsiasi cosa, e qualsiasi cosa è qualsiasi cosa, non qualcosa di specifico. Eppure ciò che mi ha segnato in questo banale episodio non è stato tanto il fatto che mia madre non abbia acquistato ciò che desideravo, quanto come sia possibile fare una promessa con il massimo slancio e con tutto il cuore, e poi non mantenere ciò che si è detto, solo perché la risposta è stata imprevedibile, fuori dalle attese o previsioni. L'episodio con mia madre mi ha fatto riflettere riguardo a quante volte noi credenti rimaniamo scossi dalla volontà di Dio quando questa non rientra nei nostri termini di valutazione. Siamo disposti a servire Gesù Cristo a qualsiasi prezzo. Ed ecco che ci chiede di fare proprio quelle cose che non ci piacciono. Promettiamo a Dio di dare del denaro per il regno di Dio, ed ecco che ce lo chiede in un momento che ne abbiamo più bisogno. Oppure facciamo professione di amare Dio, pensando a quante belle cose possiamo fare per Lui, ed ecco che ci mette in un letto di sofferenza. O limita pesantemente tutte le nostre attività facendoci sentire inutile. Noi credenti siamo disposti a servire Cristo, ma come e dove vogliamo noi? Siamo disposti a donare tutto, ma non quello che è determinante. Dichiariamo davanti a tutti di amare Dio, ma se tutto è secondo i nostri schemi. Così, quando a Dio promettiamo qualsiasi cosa, come ha fatto mia madre nei miei confronti, e riceviamo una risposta inaspettata, diamo lo stesso a Dio. Tempo, denaro e forza, ma non sempre il nostro agire. È esattamente ciò che Dio vuole da noi. Dio ci chiama a testimoniare dell'unicità di Gesù davanti ad una grande assemblea in modo che tutti possano rivolgere le preghiere solo a Lui, e noi lo facciamo in un piccolo gruppo dove sappiamo che non vi sono grandi oppositori. Oppure promettiamo di consacrare la nostra vita per il regno di Dio. E poi diamo adesso solo i ritagli di tempo o del tempo che non sappiamo come usare. In definitiva, dopo le promesse incondizionate, diamo a Dio una cipolla, quando Lui invece vuole due cipollotti. A motivarci è la volontà di Dio per noi, che quasi sempre non trova riscontro con la nostra logica. Dobbiamo essere onesti. e perché questa verità possa essere ritenuta in modo da portare dei risultati positivi nella nostra vita, dobbiamo ricordare ciò che Dio ha detto tramite il profeta Isaia. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui, e al nostro Dio che perdona largamente. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Isaia 55.69. Dunque, i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri, e questo vuol dire che la sua logica non combacia con la nostra. E quando qualcosa non combacia con la nostra logica, la prima reazione logica è di non accettarla o di adattarla al nostro modo di pensare. Un esempio può aiutare a comprendere questo principio. Ho partecipato alla riunione di una missione per la propagazione dell'Evangelo durante la quale si festeggiava un importante traguardo. Tutto era motivo di gioia. Dio aveva fatto grandi cose tramite quella missione. Tuttavia, a un certo punto, un fratello, con lacrime, fece presente che mancavano 20.000 euro per raggiungere un certo obiettivo, il cui mancato raggiungimento avrebbe tolto per sempre a migliaia di persone la possibilità di ascoltare la parola di Dio. Poiché però il motivo dell'incontro era di festeggiare, accadeva che, quando parlava il presentatore, si battevano le mani. Se predicava l'oratore di turno, si applaudiva. Quando suonava un bravissimo gruppo musicale, tutti battevano le mani. Alcuni davano delle stupende testimonianze di come Dio aveva operato nella loro vita, che non la si finiva più di applaudire. Mancavano solo 5 minuti alla fine dell'interminabile e gioioso incontro, quando, fuori programma, un uomo andò sul pulpito. Era stato toccato dalla notizia che, a causa dei 20.000 euro mancanti, migliaia di persone non avrebbero potuto ascoltare la parola di Dio. Ebbe un'idea semplice ma efficace. Dopo aver sottolineato che l'assemblea aveva una potenza della quale non era cosciente, disse che la mancanza di fondi era superabile perché la cifra di 20.000 euro era a portata di mano se solo si fossero trovate 10 persone volenterose di offrire 2.000 euro a testa. Possibile, si chiese, che in questa assemblea di 100 persone non ci siano 10 persone disposte a donare 2.000 euro? E per incoraggiare tutti fu egli il primo a rispondere alla richiesta di 2.000 euro. Contrariamente alla volontà di questa persona, ben conscia di ciò che si stava apprestando a domandare, ci fu di nuovo un applauso. Ora avveniva l'imprevedibile. Chi di voi, chiese con fermezza la persona, è disposto a dare 2.000 euro? Ed ecco che si alzò una mano, poi un'altra ancora, fino ad arrivare a 6 volontari. Ora mancavano solo altre 3 persone per raggiungere la cifra di 20.000 euro. Mentre l'uomo incoraggiava i presenti, ecco alzarsi il direttore della missione per ricordare all'uditorio che l'incontro era finalizzato a gioire e non a metterete dei pesi. Il promotore dell'iniziativa scese dal pulpito senza nessun applauso, ma fiducioso che la cifra necessaria sarebbe stata raggiunta, come del resto poi andò a finire. Ancora una volta vediamo come Dio risponde. Mancavano dei fondi, si era pregato in merito e tutto andò a buon fine, ma tarasacata. Chi fece la proposta aveva agito fuori programma, lasciando molto perplesso il direttore della missione e anche gli altri astanti, dal momento che non vi furono più applausi, e questo perché era successo l'imprevedibile, perché la risposta di Dio risultava inaspettata nei termini in cui era avvenuta. Noi chiediamo a Dio di rispondere alle nostre preghiere, ma siamo in grado di comprendere come Egli ci dà risposta? Comprendere l'inaspettata volontà di Dio non è solo un nostro problema, ma anche di tutti coloro che avevano e hanno un buon rapporto con Dio. Prendiamo l'esempio di Pietro e, fuori discussione, che Pietro amasse servire Cristo e il suo regno, dopo la discesa dello Spirito Santo egli fu il primo a predicare il Vangelo ai giudei e, secondo la promessa di Gesù, in seguito fu il primo a predicarlo anche a coloro che non erano giudei. Ma mentre nel rivolgersi al popolo giudaico Pietro non aveva incertezze, per predicare il Vangelo agli estranei ha avuto bisogno di una buona spinta da parte di Dio. Infatti, quando dei non giudei andarono a chiedere a Pietro di andare a casa loro, occorse un intervento speciale di Dio per convincerlo a farlo, pur conoscendo che per un giudeo non era lecito. Secondo lo schema mentale giudaico, infatti, Dio si rivolgeva solo al suo popolo, cioè agli ebrei, e nulla li avrebbe persuasi del contrario. Entrare in casa di un estraneo non era compreso nelle regole degli ebrei, e a maggior ragione non lo era il portare a degli stranieri il messaggio salvifico rivelato da Cristo. La volontà di Dio, secondo la logica Pietro, doveva dunque stare in questi parametri. Se Pietro non avesse accettato l'inaspettata volontà di Dio, il mondo avrebbe avuto un altro corso. Ma chiederà qualcuno meno a cosa servono queste riflessioni. Essere a conoscenza che non sempre Dio agisce secondo i nostri schemi o secondo la nostra cultura, cosa cambia nella nostra vita? Cambia molto in ogni settore della nostra esistenza, prima di tutto nel matrimonio. Ognuno di noi si sposa, serbando nel proprio cuore degli ideali e delle mete, ma meno senza eccezione per alcuno di noi, meno gran parte delle volte. Questi ideali vengono disillusi e le mete non raggiunte, inducendoci di conseguenza a pensare di non aver scelto la persona adatta e di vivere un matrimonio sbagliato. Abbiamo chiesto un matrimonio che filasse come l'olio, pensando in questo modo di onorare Dio. Invece ci ritroviamo con un matrimonio che cigora come una bicicletta arrugginita, perché Dio vuole darci in questo modo le migliori benedizioni. Non solo. Nella nostra immaginazione ci convinciamo che le benedizioni di Dio arrivino da una parte, e per questo manteniamo gli occhi sempre attenti soltanto in quella direzione, mancando di scorgere così il vero bene che ci arriva proprio là dove non pensiamo. Nostro figlio soffre di una malattia e noi un po' ansiosi ci rivolgiamo da un professore ad un altro, perché sia guarito, mentre magari una sorella già da tempo ci sta indicando una soluzione, alla quale non diamo retta. Passa il tempo e nostro figlio non migliora, così seppur increduli. Proviamo il rimedio propostoci dalla sorella e tutto si rimedia. Perché non abbiamo dato retta subito alla sorella? Perché la sua proposta non era secondo gli schemi da noi prestabiliti. Chi guarisce è un dottore o professore, perché dovrei ascoltare una persona qualsiasi? Dio spesso si serve proprio di elementi inaffidabili e impensabili come quell'uomo della riunione per compiere i suoi piani. Ma solo un orecchio attento può capirlo. Che dire, non c'è nulla da dire se non accettare che i miei schemi, i miei canoni, le mie vie prestabilite non sono le vie di Dio. E non è poco. Dicembre 2007, Ellero.